buscar la niña de Sanyue Kukuza. Un visito en mi cuacule, pilanga munda, y mega abibande bagusotora. Chau chau no kumabuye, ni rukap kangele gele, ni baza, yo cual y fiacuye. Shisio sanguli wenyene, sanguli sinze, mi fumere tute yiki gongwe. Quino, quino senge quino, te cacumina. Quino senge, io non cura mosso si, mosso si, ma fernanje lira. Quino senge quino, te cacumina. Io non cura mosso si, si, ma fernanje lira. Wachi utuma ngiri vivaso Mukwibazi kikuriza Kandi nzimesa kuhiliwe Ahanini na santa lulukundo Ikivazo ngora mutima Munu ato kuirenga giza Mami tuga na mafaranga fise mpokuwa fisurukundo Kakiru mutima ugunu Unise yetu zobana Ibinu bisosa Ikikuru nurukundo nukirukoba Wino wino Wino shenge wino Shenge wino Kakumina Mosso si, ma fernanje mira. Quino scende in quino, e cacumila. Io non curo mosso si, ma fernanje mira. Si, ma versara gara. Quino, qui oreza, qui condire. Non era muito